bella vitegna, ostia e prigioniero, intese l'annunzio della pena suoi delitti, il voglio lesse, e la costanza virtù di chi è romano forte mostrò nell'incontrarlo invinto. Con l'erranza sforzata non è virtù. Servigio della patria fu Geminio trafitto, e mancante di fede il suo servigio. E a me che fido sono, servo di tua beltà,